Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius. In viaggio nel mondo senza fine della scienza con Federico Pedrocchi. Ma se non fosse un sorriso, fosse solo una smorfia, noi lo interpretiamo come un sorriso, io non no, so. No, tu adesso non ti preoccupare, noi abbiamo i nostri esperti sappiamo a cui chiedere, che ridono. Certo. Sappiamo che ridono e ridono in maniera contagiosa. Benvenuti a Mebius, incominciamo fra poco con il riso dei babbuini. Le risate sono contagiose, lo sappiamo. È una capacità innata non solo per noi, ma anche per i babbuini. Il caso è abnorme, nel senso letterale del termine. Una ragazza londinese si è fatta fare, con una serie di operazioni di chirurgia plastica, una taglia 164 di seno. Com'è possibile che un intervento di questa natura sia permesso? Scenari globali per i prossimi 40 anni. È uscito il quarto rapporto del Club di Roma. Il primo fu I limiti dello sviluppo nel 1972, che segnò l'inizio delle riflessioni sullo stato del nostro pianeta. Il progetto si chiama Fabbrica Intelligente, ovvero progettare prodotti completamente sostenibili. È già in linea con noi questa sera la nostra primatologa di fiducia, Elisabetta Palagi, benvenuta e bentornata. Salve, salve a tutti. Ricordiamo, per chi insomma non lo sapesse, che lei lavora al Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa e in collaborazione anche con l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR di Roma. Allora Palagi, come si fa a essere sicuri che ridano? Potrebbe essere una smorfia. Dunque no, non è una smorfia, perché è un'espressione facciale che viene fatta in modo costante e ripetuto, quindi con una serie di pattern motori, cioè di sequenze di azioni motorie ben precise. Quindi come capiamo perfettamente quando qualcuno di noi sorride e non fa una smorfia senza un particolare significato, così lo possiamo capire anche osservando gli animali. Lo stavo dicendo io, insomma, come noi ridiamo e come una mamma ad esempio sorride al proprio piccolo, ne abbiamo parlato qualche tempo fa a Mebius, e lui risponde sorridendo, così mi par di capire che succeda anche coi babbuini, no Elisabetta? Avete studiato questo? Succede la stessa cosa, se non che però diciamo le risposte dei piccoli ma anche degli adulti possono essere anche rivolte ad altri adulti che non sono strettamente parenti. Certo. Anche se diciamo che il fenomeno è più accentuato tra la coppia mamma-bambino. Quindi più c'è sintonia, più legame affettivo, più la cosa... È un po' come ne avevamo parlato dello sbadiglio. Esatto. C'è una contaminazione. Funziona nello stesso modo. C'è una contaminazione maggiore quanto più l'emotività è tirata in ballo. Ma il nostro sorriso è legato spessissimo a delle situazioni divertenti. Qui io non so se voi tentate di raccontare delle barzellette ai babbuini, mentre invece qui è un sorriso di empatia, no? di felicità nell'incontro, nella relazione. Dunque, le espressioni che sono state analizzate in questo studio riguardano proprio il gioco, la componente ludica, così come diciamo sono state studiate nei bambini, nei piccoli della nostra specie. Siamo vicini alla barzelletta. Quindi c'è proprio del divertimento, insomma, ecco, si può parlare di divertimento. Contagio emotivo vero e proprio, ma ci dica che l'animale in quel momento come? Prova cioè, piacere. Cosa stanno facendo, per esempio? Voi dite, ecco, vede, sta ridendo. Dunque, ad esempio, la sequenza classica è un play fighting, cioè un cercare di essere acchiappati oppure no. La lotta, il gioco della lotta, dell'acchiappatella. Giocare per lotta, mordicchiarsi, tentare di fuggire, far finta di fuggire ma in realtà farsi acchiappare, quindi... C'è questa, come dire, necessità di continuare l'interazione da parte dei giocatori, e questo si vede normalmente sia tra madri e piccoli ma anche tra altri membri del gruppo, e questo fenomeno è pervasivo, cioè si trova in tutte le classi di sesso e di età, tutte le possibili combinazioni, anche se una risposta emotiva maggiore, un dialogo facciale maggiore si trova tra mamma e piccolo. A me piace molto sentir raccontare voi ricercatori che appunto fate esperienza sul campo, perché voi queste cose le vedete davvero. Sicuramente, cioè, raccontaci appunto come fate. Allora, la soluzione migliore e l'unica possibile in questi casi, quando l'animale è libero di muoversi, non è costretto e quindi fa quello che vuole, e hanno a disposizione tantissimo spazio, possono fare quello che vogliono, usare gli oggetti che vogliono, nascondersi se vogliono. In questo caso la telecamera è uno strumento essenziale, abbiamo bisogno proprio di riprendere tantissime sessioni ludiche, quindi di gioco, per fare in modo anche di avere delle buone riprese, in particolare i primi piani. Eh già, ma voi essenzialmente fate un lavoro in cui osservate tantissimo. Dal punto di vista sperimentale, cosa fate? Cercate di trovare poi nei video situazioni molto vicine, molto simili, nelle quali vedete lo stesso tipo di effetto. È così il metodo? Esattamente, esattamente. Diciamo, il gioco sta nel fatto di avere molto materiale e tantissimo materiale viene poi scartato perché chiaramente non utilizzabile, e tentiamo di estrapolare la parte sperimentale, la parte di controllo dai video che sono chiaramente più interessanti e che contengono gli stimoli che ci interessano. Ad esempio, in una sessione di gioco uno può avere una bella espressione di sorriso oppure può avere anche altre espressioni. In questo caso, per vedere, per testare, assaggiare se c'è una maggiore risposta emotiva alla risata e quindi un maggior contagio legato alla risata, possiamo confrontare quante volte, diciamo, vedere una risata stimola una risposta congruente piuttosto che vedere un'altra espressione facciale. Un lavoro statistico. E vorrei infatti far capire che la difficoltà proprio del vostro lavoro è questo, che perché sia una ricerca significativamente e statisticamente valida, dovete avere una mole di informazioni, di filmati, di osservazioni veramente importante, cioè che fate un lavoro molto lungo e dovete osservare tantissimi soggetti. Tantissimi soggetti, e soprattutto in questo caso non solo tantissimi soggetti ma anche un numero elevato di sessioni di gioco, perché ricordiamo che è vero che sono animali in cattività, ma non è che gli animali in cattività passano tutta la giornata a giocare. Sì. Quindi per avere 1000 sessioni di gioco, che diciamo di riprese video relative a 1000 sessioni di gioco, ci sono voluti 4 anni con qualcosa di come circa 1500 ore di osservazione. Senta Elisabetta, un'ultima domanda, ma secondo lei, se voi ridete, loro vi interpretano come ridacchioni, cioè o no? Su questo dato, per quanto riguarda i babbuini, non c'è assolutamente ancora niente, anche se però ci sono degli esperimenti di imitazione neonatale che peraltro ha condotto il mio collega di Parma, Pier Francesco Ferrari, dove era lo sperimentatore che forniva lo stimolo e poi c'era un controllo fornito in laboratorio, ed effettivamente l'imitazione neonatale, ad esempio nei macachi reso, è stata documentata e ampliamente pubblicata. Ormai. Vedi tu. Beh, alla fine ci assomigliamo. Certo. Sì. E poi questa cosa di mostrare i denti è abbastanza interspecifica, cioè sì. È così. Poi fra qualche tempo ci saranno dei babbuini in onda che parleranno degli esperimenti su di noi in gabbie. Parleranno in radio, magari ci sono già e non lo sappiamo. È possibile, considerando che spesso quando sono davanti agli animali mi chiedo spesso se sono io che osservo loro o loro che osservano me. Certo. Va bene. Arrivederci. Grazie Elisabetta, davvero, alla prossima, tanto sappiamo che ne sforni. Arrivederci, buon lavoro. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Dunque Chiara, vorrei dirti una cosa, dimmi se sbaglio. Dimmi Federico. Che è la seguente: io sono un po' imbarazzato perché vorrei assolutamente evitare il rischio che questo tema che noi stiamo per affrontare venga vissuto come un ammiccamento a luci rosse, cose del genere. Ma assolutamente no, purtroppo, a parte che chi ci segue lo sa, che noi non abbiamo questa tendenza. Esatto, che non è nel nostro stile. A volte quando parliamo di animali, magari del sesso degli animali facciamo. Sì, ma senza malizia, mai. Senza malizia, sì. Qui invece ci troviamo di fronte a un caso che è, oltre ad essere un grandissimo caso umano, è un grandissimo caso tecnico e anche giuridico. Allora, sì, è un caso, se vogliamo, unico, ma non unicissimo, perché spesso ne sentiamo parlare anche in altre forme. Ora entriamo nel dettaglio. Però c'è un video che voi potete vedere andando al nostro sito, vi diamo le indicazioni dove andarlo a vedere. Sì, è una trasmissione di quelle del mattino che potrebbe andare in onda nella nostra RAI, ecco, in Inghilterra. La TV si chiama ITV, per chi volesse andare a vederlo. Ancora più informazioni. E una mattina, durante una trasmissione, hanno avuto un ospite, una donna, Chelsea, che aveva subito, diciamo così, 3 operazioni di chirurgia estetica. Tu hai usato il termine subito, lei se aveva scelto, fare, ecco. Scelto di subire 3 operazioni di chirurgia estetica e portare la propria taglia da una quarta che aveva, lei dice nell'intervista, ad una, lei dice 164, che corrisponde all'italiana sedicesima. Diciamo brevemente, quando vedrete il video, questa ragazza ha davanti... È palesemente maggiorata, diciamo. Ma voglio dire, ha davanti 2 damigiane, due damigiane di vino. A questo proposito ti farei sentire l'audio originale, magari ecco. Intanto lo traduciamo un po' a braccio. A braccio, con i due conduttori, un uomo e una donna, che la intervistano, e appunto la prima cosa che dice l'intervistatore è proprio questa. And you wondered how heavy Chelsea's boobs are. Per darvi un'idea del peso di questa, che questa donna si porta, basta prendere una sporta della spesa e riempirla di due grossi angurie, di due grosse angurie, e questo è il peso di una sola delle due. Delle due. E lui dice, una prima grande questione è come va con la schiena, no? Cioè, e lei dice che praticamente fa continuamente degli esercizi per non avere una deformazione. E qui è il punto, cioè lei dice che deve per forza irrobustire la schiena per non cadere in avanti, ecco. Quindi ha subito anche una sorta di handicap, se vogliamo. E poi prosegue, perché lo fai? When I decided in the States that I wanted to be a feature dancer. Ecco, that's like an exotic dancer, we call that here. Is that right? Ecco, lei diceva che negli States, no, faceva anche delle performance di striptease, feature dancer. Sì, feature dancer, lei dice una danza esotica, eccetera, eccetera. Però lei dice anche, e non si sente tanto qua nella registrazione, adesso l'abbiamo terminata, lei dice anche che però la cosa che in fondo le piace di più è che lei andando in giro c'ha un sacco di gente, di famiglie, bambini, sì, donne, in qualche uomini. Modo lei viene riconosciuta e chiedono di essere, sì, appunto, di essere presente nelle foto, nei filmati, eccetera, eccetera. Quindi siamo di fronte certamente a un problema anche di tipo psicologico non da poco, insomma. Sì, però ci piacerebbe non entrare in questo merito, bensì entrare nel merito del perché un medico si possa presta. Sentire autorizzato a fare un'operazione di questo tipo nel momento in cui appunto crea una sorta di handicap, perché questa donna ovviamente da qui a sempre dovrà fare degli esercizi, dovrà potenziare la schiena, dovrà fare in modo che questa sua scelta non la condizioni, sia reggibile, sia praticabile, certo. Se pensiamo che una ragazza che avrà 25-26 anni, immaginiamocela a 50 anni, non si riesce a capire. Ecco, questo è un caso estremo, ovviamente ne abbiamo sentiti altri, quell'uomo che si è fatto fare 50 interventi per assomigliare ad un felino, ma sì. Così ne potremmo raccontare, sì, tanti, sì, sì. E allora la questione che ci ponevamo in redazione era perché uno non va da un chirurgo a chiedere di tagliarsi un braccio, tagliarsi un piede, perché uno dovrebbe provocarsi. Per essere più precisi, infatti adesso chiamiamo in onda Barbara Bottalico. Buonasera Bottalico. Buonasera. Lei è avvocato, giurista, ma soprattutto qui la chiamiamo perché ogni tanto vi stiamo chiamando in onda per questi casi che hanno a che vedere fra tecnologie che arrivano e problemi di tipo giuridico legale. Lei fa parte del gruppo delle CLT di Pavia, che è un centro, ce ne sono tre al mondo, insomma, che si occupano di queste questioni. Ecco, la cosa che stava dicendo adesso Chiara e da cui possiamo partire è la seguente: se io vado in clinica, pensate, ascoltatori e ascoltatrici, c'è una patologia rarissima, ma c'è, di gente che ha il desiderio di togliersi un arto. E se io vado in clinica e dico tagliatemi una gamba, no, nessuno in un paese come il nostro è disposto a farlo. Com'è possibile invece che una cosa di questo genere, che possiamo ritenere altrettanto abnorme, ottenga un ok, ottenga, ecco, un dopo permesso? Sentiremo anche e ovviamente l'opinione di un chirurgo di un plastico. Chirurgo. Barbara. Sì, allora io inizialmente farei una prima distinzione tra quella che è la chirurgia estetica e la chirurgia ricostruttiva. Quindi noi qui adesso ci stiamo occupando di chirurgia estetica nel senso di interventi che modificano, correggono, comunque migliorano il nostro aspetto estetico. Questo perché viene fatto? Viene fatto perché ovviamente il corpo ci pone in contatto con gli altri e quindi in un certo senso ci consente anche di costruire quella che è la nostra identità. Identità che in questo periodo è sicuramente molto influenzata dalla cultura mediatica. Sì. Ovviamente però questo ad oggi va ad intersecarsi anche con il tema della salute, quindi la bellezza non è più una tematica distaccata da quella della salute. Il concetto di salute ha avuto una forte accentuazione nella sua dimensione soggettiva, mm-hmm. E quindi non è più un qualcosa, diciamo, di oggettivo, di riferito esclusivamente al corpo, ma anche una forte componente psichica, sociale, e quindi addirittura anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è un'agenzia dell'ONU, tempo fa definì la salute come uno stato completo di benessere fisico, psichico e sociale. Questo perché è importante? È importante perché in questa prospettiva l'intervento chirurgico estetico ovviamente va a rientrare anche in una sorta di trattamento terapeutico, nella misura in cui una determinata condizione fisica dovesse venire percepita dal soggetto come fonte di malessere, di disagio. Sì. E quindi queste persone ritengono sostanzialmente di esercitare un diritto di libertà, di autodeterminazione, proprio nello sviluppo della propria personalità. Mm. Se la ragazza in questione ritiene di vivere un disagio avendo un seno troppo piccolo, ma desiderare fortemente questo tipo di misura per potersi esplicare nella vita sociale, per poter avere successo con le persone, poter svolgere il lavoro che le piace, questo finisce per avere anche una dimensione giuridica attinente proprio al diritto di salute. Questo dal punto di vista della paziente in effetti psicologicamente è spiegato, insomma potrebbe essere così. Esatto. Anche se non l'abbiamo detto, questa ragazza è una ragazza molto bella, magra, aveva una quarta, quindi diciamo che problemi forse non doveva averne grossi, ma appunto ribaltando poi il problema verso il chirurgo, che anche noi sentiremo, insomma lì il problema forse è un pochino più complesso. Sì, allora io in questo caso mi richiamerei a un parere molto interessante che è stato rilasciato dal Comitato Nazionale per la Bioetica proprio l'anno scorso in Italia, dove sostanzialmente si dice sì, è giusto che rinunciamo a una distinzione netta tra quello che è sano e quello che è patologico, quello che è normale e quello che non lo è. È giusto accogliere nel concetto di salute una dimensione sia soggettiva che oggettiva, però bisogna stare attenti a non relativizzare troppo ovviamente questo concetto di salute, non dobbiamo arrivare a degli estremi. E quindi diciamo che l'indicazione giuridica che è stata data al chirurgo riguarda innanzitutto l'accertamento delle condizioni fisiche del paziente, dare un'informativa esaustiva sul caso, accertarsi che vi sia un consenso informato, una corretta valutazione a rischi benefici, tutto questo ovviamente per evitare di fare scelte dettate ad esempio da patologie psichiatriche come il caso che facevamo prima o da quello che viene chiamato accanimento estetico. Mm. Quindi diciamo che il medico ha un dovere di informazione e di avere il consenso informato della persona. Poi per quanto riguarda la nostra legislazione diciamo che iniziano a esserci un pochino dei paletti, ad esempio nel 2012 è stata approvata una legge che vieta la mastoplastica per le minorenni. Mm-hmm. In Italia una ragazza che ha meno di 18 anni non può fare una scelta di questo tipo se non c'è il consenso del genitore. Mm. Abbiamo anche un altro riferimento importante che proviene dal nostro codice civile, l'articolo 5. L'articolo 5 cosa dice? Che gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionano una diminuzione permanente dell'integrità fisica. Ecco, questo punto è il motivo per cui una persona non può richiedere a un medico che gli venga tagliata la gamba. Però, banalmente, noi ad esempio possiamo donare il sangue, ma non possiamo tagliarci un braccio. Mi scusi, però se io sento di essere minorato psichicamente perché non ho una proboscide, in quanto la mia passione per essere elefante è fortissima, e allora rientriamo dentro quello che lei dice e uno mi mette una proboscide al posto del naso. Ma allora innanzitutto bisogna capire come viene interpretato il diritto all'integrità fisica, nel senso che ci sono dei casi in cui anche degli interventi permanenti sono stati accettati, pensiamo al cambio di sesso, una persona che si sente uomo in un corpo di donna o viceversa ad oggi ha la piena possibilità, grazie a una legge dell'82, di cambiare sesso. Ma quindi lì la diciamo vedo che la cosa, in questo per caso però non crea nessun disturbo fisico alla persona. Nel caso invece di cui abbiamo sentito prima, questa donna ha delle importanti conseguenze fisiche, cioè viene la scoliosi, si butta in avanti, deve dormire in un certo modo, deve sedersi in un certo modo. Ecco, io non sarei così convinta, nel senso che se pensiamo al cambio di sesso e anche a tutti gli interventi di tipo ormonali che vengono fatti, diciamo che sicuramente problematiche connesse ce ne sono. Nel caso di questa ragazza, guardando il video, io mi sono accorta che lei diceva che il giorno che volesse avere figli comunque tornerebbe indietro e si farebbe rimuovere queste protesi e tornerebbe ad avere un seno normale, perché ad esempio per lei adesso non è possibile rimanere incinta, proprio banalmente non c'è posto per la pancia. Certo. Infatti quindi nell'intervista glielo chiedono e lei dice non ci ho ancora pensato. Non ci ho ancora pensato. Esatto, io penso che tutto sommato lei non sia veramente consapevole di quello che comporta una situazione di questo tipo a lungo termine. E qui allora rientra il ruolo del medico. Infatti, le avrà effettivamente prospettato quelle che sono le conseguenze di lungo periodo? Io credo di no. Ecco, infatti su questo tema adesso sentiamo il nostro esperto. Va bene, grazie Bottalico, davvero interessante. Grazie a voi. E qui appunto, come annunciato, continuiamo con il nostro ospite. Abbiamo con noi Marco Klinger, che è docente dell'Università di Milano e soprattutto responsabile del settore di chirurgia plastica dell'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a Milano. Intanto buonasera Klinger. Buonasera, buonasera a voi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. E la domanda è chiara? Sì, continuiamo a parlare di questo caso appunto che abbiamo sentito poco fa, di questa donna che si è fatta fare la 164 di reggiseno, quindi un seno enorme, e quindi ora abbiamo in linea un docente dell'Università di Milano, Marco Klinger, ancora benvenuto, responsabile di chirurgia plastica all'Humanitas di Milano, e le chiediamo, lei un'operazione di questo genere l'avrebbe fatta? Beh, assolutamente no. Nel senso che io, come la quasi totalità dei miei colleghi italiani, europei, americani, siamo persone serie e quindi non è che tu esegui quello che ti chiede una paziente, esegui quello che ti chiede una paziente se sei concorde con quello che chiede la paziente, se lo ritieni una cosa lecita, se no no. Ma questa donna fra 15 anni potrebbe avere dei grossi guai. Quello che infatti noi ci domandiamo è questo, va bene, supponiamo anche che ci sia una liberatoria, ma poi dopo, se succedono guai grossi, in fondo comunque il chirurgo non diventa responsabile in questi altri paesi, non lo so, in Inghilterra, in America. Ma dunque, io devo dire sì, però voi tenete presente che nel nostro mestiere, come in tutti i mestieri, esiste comunque un certo numero di persone che sono totalmente senza scrupolo, per le quali tutto sommato rischi futuri o non gliene importa, addirittura punizioni, virgolette, chi se ne frega, nel senso che proprio la cosa importante è fare l'intervento in più, magari fartelo pagare profumatamente, perché se tratta di un intervento particolare, ciao. È la paziente che più del chirurgo non si rende neanche lontanamente conto di quali saranno i suoi problemi, che saranno tanti, perché il problema non è quello che esibisci la sera dalle 21 alle 23, esibisci due seni spropositati, il problema è che ti riporti anche dalle 23 alle 21 il giorno dopo. Sì. E in questo caso il medico non ha un ruolo nel dover informare sempre il paziente di quali possono essere le conseguenze, soprattutto di salute? Ma questa è una domanda a cui la risposta, come voi immaginate, è assolutamente scontata, nel senso che chiunque di noi, nel momento stesso in cui si laurea, gli viene letto questo giuramento, che è il giuramento di Ippocrate. Il giuramento di Ippocrate dice tutto quello che tu devi fare, che è lecito fare, che tu dovrai fare nel corso della tua carriera. Di cui il paziente è comunque sempre al primo posto. Devi rispettare i tuoi colleghi, i tuoi maestri, ma il paziente è al primo posto. Quello che viene da me, mi fa una domanda a me, Marco Klinger, chirurgo, è una domanda che viene messa sul piatto di una bilancia in cui io registro da una parte i pro e dall'altra parte i contro. E se i pro non sono schiacciantemente superiori ai contro, io non do indicazione a quell'intervento perché non lo ritengo né lecito né corretto né utile per il paziente. È così che dovrebbe comportarsi ognuno di noi. Ma credetemi, ho conosciuto nella mia vita, attraverso la mia vita professionale, la vita professionale di mio padre, ho conosciuto 30.000 miei colleghi, dei quali, a differenza di quello che spesso la gente pensa, il 99,99% sono iperstraseri, assolutamente concordi con questi giuramenti. Certo. Ecco, perché ci sono delle operazioni, anzi sono la stragrande maggioranza delle operazioni, quelle che migliorano magari un difetto che ci fa sentire male, che appunto ci fa sentire non contenti, che però non sono queste cose abnormi che... Assolutamente no, ecco. Assolutamente no. Sì. Purtroppo queste cose abnormi, però, come dice lei, Chiara, sono quelle che danno un'immagine spesso, un'etichetta sbagliata della chirurgia plastica, in particolare della chirurgia estetica. Cioè, la realtà è quella che io spiego sempre alle signore, è che quella che avere due protesi nella mammella non vuol dire avere due palle dure, gonfie, come la vicina di spiaggia. Quella lì è un'eccezione, è una mastoplastica additiva fatta male. Tutte le altre, quelle che uno incontra in palestra o vede che si spogliano per la doccia, e che sono più molli del loro seno, sono quelle che invece sono le mastoplastiche additive corrette. Lo stesso vale per le facce, mentre invece l'eccezione è quella che purtroppo testimonia sempre del passaggio della chirurgia estetica. Beh, perché non è proprio vero. Certo, ha questa sua forte visibilità. Le chiedo, Klinger, cosa potrebbe succedere a questa ragazza? Beh, questo è il minimo che può succedere. Allora, innanzitutto ci sono delle cose tecniche che magari siete curiosi di sapere, che quello che delle protesi così grosse non esistono o vengono fatte ad arte, come dire, prodotte sulle misure che chiede un chirurgo, quindi è una roba che ci vogliono mica due giorni per organizzarlo. Si possono addirittura usare due protesi insieme, impilate una sopra l'altra, ma insomma sono cose abbastanza leggendarie. Sì, lei, se non sbaglio, nell'intervista dice che gli sono state impiantate dei materiali che si auto, non so come dire, ingrandiscono col tempo, per cui ha dovuto fare tre operazioni, però mano a mano il materiale forse si espandeva, una cosa del genere. Sì, lei probabilmente ha avuto un impianto di espansori mammari o qualcosa che ricorda gli espansori mammari, che sono quelle cose che mettiamo per esempio alle pazienti mastectomizzate per ricreare pelle, là dove purtroppo, poverette, per la mastectomia non ce n'è più, quindi utilizziamo degli espansori, gonfiamo la pelle che non c'è più e poi sostituiamo questo alla fine con protesi mammarie definitive. Quindi si può espandere la pelle, spesso la pelle è così elastica che si espande già in prima battuta da sola. Il problema è che poi quei materiali lì si degenerano col passare del tempo, perché si deteriorano di sicuro. Ecco, poi voglio dire, due mammelle così adesso sembrerà comico, ma le sbatti da tutte le parti. No, cioè, beh, questa donna deve dormire in un modo strano. Diceva nell'intervista che aveva problemi ad andare in aereo perché non ci stava. Assolutamente, per me è tutto in... dire, non ci stanno, sarà scomodo. Immaginatevi danni alla schiena, cioè chi di voi solamente ha mai provato a soffrire una volta di problemi di cervicale o di schiena o di cose eccetera, immaginatevi cosa vuol dire per la statica di una paziente normale. Una mastoplastica additiva è stato valutato dai più famosi chiropratici e fisioterapisti che una protesi messa correttamente dietro al pettorale non altera la statica di una paziente donna, che è incredibile, sembra, no? Sì. Una protesi normale. Ma una protesi di questo genere qua, capite che è una roba più altro che statica. Lo scenario è disastroso. Noi la ringraziamo, Klinger. Grazie. L'abbiamo sentito prima una giurista che in fondo ci ha detto che purtroppo, insomma, c'è una zona un po' grigia. Non è vero che cose di questo genere, insomma, si possono fare, infatti, e questo è quello che è accaduto. Ecco, purtroppo sì, perché noi dimentichiamo spesso che conta anche il proprio confine di quanto è ritenuto morale o eticamente corretto. Va bene, vi grazie. Ringrazio molto. Grazie, buon lavoro davvero. Buona serata, grazie ancora. Vi voglio consigliare la lettura di un libro e lo faccio insieme al mio ospite questa sera, Gianfranco Bologna. Buonasera Bologna. Buonasera a voi tutti. Direttore scientifico del WWF, personaggio che cura da tempo e da molto da vicino questi temi. Il libro è 2052, scritto da Jorgen Rander, che è un docente di Climate Strategy e che nel 1972, quindi 41 anni fa, era un giovane ricercatore che faceva parte di quel gruppo dal quale uscì su indicazione del Club di Roma, e adesso magari vi spieghiamo che cos'era, faceva parte di quel gruppo che produsse appunto questo rapporto, I limiti dello sviluppo. Bologna, ti ricorderai senz'altro che quando uscì nel 72 I limiti dello sviluppo ottenne un risultato eccezionale, cioè dal punto di vista politico-culturale trovò contro dall'estrema sinistra all'estrema destra, non c'era nessuno che era d'accordo con questo segnale fortissimo che arrivava e che di fatto possiamo considerare, come dire, il momento di inizio, no? Di questo grande messaggio che certo poi si è gonfiato fortunatamente nel tempo e che ci dice che il pianeta è limitato e che stiamo correndo rischi micidiali. Jorgen Rander adesso in questo suo libro 2052, edito da Edizioni Ambiente, non è esattamente un rapporto come quello e come ce ne sono stati altri, no Bologna? Certo, è stato bene ricordare il grandissimo valore del rapporto del 72, perché è bene anche collocarlo storicamente, perché adesso uno pensa al 72, pensa a 41 anni fa, ma non ricorda che in quel periodo per la prima volta l'umanità cominciò a lanciare i satelliti da telerilevamento, cioè la nostra conoscenza. Proprio nel luglio del 72 la NASA lanciò il Landsat 1, il primo satellite squisitamente ed esplicitamente dedicato a monitorare il pianeta. Oggi noi siamo stracolmi di satelliti che monitorano tutto, siamo in grado veramente di poter fare il calcolo della produttività primaria netta delle piante sul nostro pianeta attraverso gli straordinari e raffinatissimi sensori di alcuni satelliti, siamo in grado di capire come si sta modificando l'intero paesaggio nell'insieme del pianeta, sia quindi le terre emerse che le terre bagnate dai mari e dagli oceani. Quindi all'epoca gli studiosi dell'MIT di Boston, tra cui Jorgen Randers, Dennis Meadows, Donella Meadows e gli altri, non avevano questa straordinaria conoscenza che oggi invece è stata messa a disposizione della scienza, perché noi oggi siamo in grado veramente di monitorare il nostro pianeta, oserei dire attimo per attimo. E questo è molto importante, perché siamo in grado di capire gli effetti che il nostro intervento sta provocando, oserei dire in maniera gravissima, non solo sui sistemi naturali, ma con gli effetti che queste cause hanno nei confronti anche della civiltà umana, delle società umane, del benessere umano. Ecco, qui Gianfranco, io vorrei farti una domanda che mi sembra cruciale per presentare questo libro, che, lo dico, ogni tanto per certi libri lo faccio, davvero leggetevelo, perché leggerlo in questo periodo è importante, in quanto siamo e speriamo anche stiamo uscendo da una crisi gigantesca senza precedenti, e quindi guardare al futuro è fondamentale. Bologna, in questo libro, la sintesi fondamentale, il cuore, dice che sono passati 41 anni dai limiti dello sviluppo, abbiamo certamente accresciuto enormemente le nostre conoscenze, abbiamo molte più tecnologie per poter intervenire su questa situazione del pianeta. Allora tutti erano in disaccordo, adesso non è vero, c'è certamente consapevolezza di questo problema, però il libro dice che in realtà passi avanti significativi non se ne sono fatti, e qui entra in gioco un difetto della democrazia, dice addirittura Brander, certamente non elogiando le dittature. Spiegaci un attimo questa cosa. Ma è una cosa, a mio avviso, molto importante, oserei dire per certi versi anche condivisibile. Il problema che noi assistiamo quotidianamente è quello, penso ovviamente al grande tema che tutti gli ascoltatori conoscono bene, del cambiamento climatico, del ruolo che l'intervento umano ha nei confronti dell'incremento dell'effetto serra naturale. Quello che di fatto sta avvenendo è questa straordinaria lentezza di reazione. Gli amici del limiti della crescita, limiti dello sviluppo, che poi hanno fatto altri due rapporti nel 92 e nel 2004, questo è l'ultimo, diciamo il quarto, diciamo se vogliamo, della serie, hanno sempre sottolineato, anche nei due successivi del 92 e 2004, come purtroppo la reazione fosse molto molto lenta rispetto agli effetti che potevano verificarsi nei confronti di sistemi che sono oramai vicini addirittura a punti critici. Se si sorpassano questi punti critici, per la gestione della specie umana diventa difficilissimo, perché gli effetti a cascata che ne derivano sono talmente pesanti che la specie umana non ce la fa. Quindi, diciamo, l'allarme di Jörg Randers io credo che sia molto condivisibile. Sì, cioè alcuni aspetti fondamentali per il futuro dell'intera civiltà umana, perché questo è in gioco, non è il futuro del pianeta in gioco, perché il pianeta ne ha visto di tutti i colori. Potrebbe vivere tranquillamente pieno di insetti, cioè ci stiamo trincerando dietro, come dire, una falsa democrazia, che è quella del ognuno è libero di dire le sue cose, e però non siamo in grado di prendere invece delle decisioni intelligenti. La democrazia diventa un fattore limitante dell'intelligenza, ma è un uso distorto, no, della democrazia, questo, certo. Purtroppo, adesso non vorrei, lungi da me, diciamo, per carità, lanciarmi, certo, in riflessioni da scienziati della politica, ovviamente non lo sono, no, però no. Ecco, credo che sia un segnale che va assolutamente ascoltato, e noi ci avvicineremo anche quest'anno alla prossima conferenza delle parti sui cambiamenti climatici eccetera, ancora con un processo negoziale lunghissimo, lentissimo, come sanno gli ascoltatori, ormai è finito il protocollo di Kyoto, non c'è un sostituto, si sta cercando di avere questo accordo globale che finalmente riduca in maniera significativa queste emissioni, e questo non sta avvenendo. Non possiamo, il messaggio è non possiamo più permetterci. 2052, edito da Edizioni Ambiente, Jörgen Rander è l'autore. Grazie Gianfranco Bologna e buon lavoro. Grazie a voi tutti, arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Fabbrica intelligente, eh? È un bel titolone, insomma, una bella premessa. Cioè, forse che quelle che abbiamo non sono abbastanza intelligenti? Beh, certo, questo è il presupposto da cui si parte. E ne parlo con Leda Bologni. Buonasera, Leda Bologni. Buonasera. Lei fa parte di Aster, che è questo consorzio delle quattro grosse università emiliane, e fa parte dell'organismo di coordinamento e gestione di questo progetto che si chiama Fabbrica Intelligente. È un progetto cluster, questo è il nome che è stato dato a questi progetti piuttosto grossi varati dal Ministero della Ricerca non molto tempo fa e che hanno degli obiettivi grandi, mettendo insieme aziende, centri di ricerca, insomma delle cose di un certo peso per obiettivi altrettanto appunto pesanti, elevati. Questo della fabbrica intelligente, beh, insomma, è estremamente interessante. Proviamo a dare una definizione generale. Quale sarebbe l'obiettivo, insomma, di una fabbrica intelligente? Ma l'obiettivo di una fabbrica intelligente è un insieme di sistemi di produzione che siano adeguati ai bisogni più attuali, che sono quelli di utilizzare in modo adeguato le risorse che sono disponibili. Non sprecare, quindi, per esempio. Certamente. Ma è anche quello di utilizzare al meglio, quindi non è solo un problema di uso complessivo delle risorse, ma utilizzare bene quelle che si usano, quelle che, di cui è necessario considerare, ed è un modo anche per dare valore aggiunto ai prodotti. Valore aggiunto che significa? Ma significa uscire dal valore intrinseco di un prodotto per andare a un contenuto che può essere un contenuto, per esempio, legato alla sua capacità di interpretare che cosa avviene intorno a lui e di adeguare i suoi comportamenti a questo. Questo è un po' l'intelligenza dei prodotti, ma la fabbrica intelligente si occupa specificamente del modo con cui questi prodotti vengono realizzati. Ha detto una cosa molto bella, ma non di facile comprensione. Il prodotto che si rende conto di quello che avviene intorno a lui ed è però vero, io so un po' insomma di che cosa si tratta, è una definizione non facile ma assolutamente vera, cioè il prodotto come qualcosa che nel momento in cui si mette in un ambiente dove ce ne sono tanti altri ha una intelligenza di relazione con il resto. Per esempio, se non sbaglio, una grossa intelligenza sarebbe quella che porta il prodotto ad essere smontabile e completamente riciclabile, quindi in un certo senso la sua materia prima rientra dalla porta di ingresso della fabbrica per essere reinserita in produzione, tanto per fare un esempio, no? Questo per esempio sarebbe un'intelligenza. Questo è un punto di grandissimo interesse ed è un argomento molto interessante, perché cambia il modo in cui i prodotti vengono concepiti e realizzati. È un punto molto importante perché si riferisce a dei modi di progettare prodotti che tengono conto non soltanto del modo in cui questi sono prodotti e del loro ciclo di vita produttiva, certo, ma anche del ciclo di vita quando questi non sono più produttivi, tipicamente quando devono essere smaltiti. Certo. Ci sono quindi delle considerazioni che devono essere fatte fin dal momento in cui questo oggetto viene concepito e questo diventano delle specifiche di prodotto e diventano anche delle specifiche di produzione. Possiamo avere questa immagine che abbiamo visto in molti film di quelle famose macchine con delle mandibole d'acciaio che schiacciano e riducono a un cubo abbastanza piccolo un'intera automobile, no? In quei film in cui magari dentro la macchina la camorra ci metteva anche qualcos'altro e lì c'è, come dire, il massimo dello spreco, no? Perché tutte le componenti più diverse come materiali di un'automobile vengono semplicemente compresse e poi venivano sbattute in un forno che fondeva tutto. Qui invece si tratta di costruire dei prodotti che siano tutti completamente smontabili, riciclabili, non necessariamente nella stessa fabbrica, ma possono finire da tante altre parti. Questa è quell'economia sostenibile che dovrebbe dare degli enormi vantaggi ambientali. Ecco, ma le chiedo, allora, nel processo di produzione di prodotti di questo genere, che cos'è che può intervenire per generare questa intelligenza? Possono intervenire tanti aspetti e tanti elementi che fanno parte del ciclo produttivo. Intanto la fase di progettazione sia del prodotto che del sistema produttivo. Quindi queste qui sono queste considerazioni che noi abbiamo fatto sono degli elementi che intervengono fin dall'inizio nella generazione di un prodotto nuovo o nella modifica di un prodotto esistente. Poi ci sono dei sistemi di produzione che sono più facilmente intercorrelati tra loro. Sì. Vale a dire, nei vari momenti del ciclo di produzione vengono trasmesse delle informazioni che fanno parte, che descrivono sostanzialmente tutto quello che è avvenuto nelle fasi precedenti e danno delle indicazioni alle fasi successive. Questo anche in un'ottica di monitoraggio e di controllo di quello che sta avvenendo. Questo non mi è molto chiaro, Bologna, cioè nelle varie fasi di produzione ogni fase certo è regolata da certe informazioni che regolano la fase stessa. Normalmente in una fabbrica non c'è trasmissione di informazioni da una fase all'altra, e che vantaggio c'è invece ad avere questa trasmissione? Direi che le informazioni nelle situazioni migliori, naturalmente, le informazioni tuttora ci sono, ma queste possono essere ulteriormente migliorate se rientrano in una logica più complessiva di controllo dell'intero processo e non della singola operazione di cui si sta occupando. La singola fase produttiva a cui noi ci riferiamo in quel momento. Cioè, noi possiamo avere delle fabbriche nelle quali, se ogni singolo processo ha una sua autonomia forte e non è collegata a un pensiero generale che mette insieme tutto dall'inizio alla fine, per esempio possiamo avere ogni volta dei grandi sprechi. Esatto, energetici, di tempo, di risorse e complessivamente appunto di valori, no? E certo. Mi permetto di dire anche che questo, insomma, è un buon modo di descrivere la fabbrica intelligente, ma è anche un modo interessante per descrivere il meccanismo del cluster, perché se noi trasformiamo, insomma, questo concetto che noi abbiamo applicato alla fabbrica al modo in cui questa iniziativa cluster è stata pensata e organizzata, ritroviamo sostanzialmente le stesse considerazioni, cioè sì. Dobbiamo immaginare i vari soggetti che sono interessati a questi progetti così complessi che devono trovare un luogo in cui ragionano tutti insieme, perché la connessione uno a uno non è più una connessione vincente in questo mondo della complessità. No? Sì, quello che ci viene a mancare, quello che manca fortemente, lei dice, è il fatto che si lavora a celle separate troppo, esatto. Mentre invece se mettiamo insieme le cose, gestiamo tutto il processo e lì arrivano i risparmi. Però si tratta anche di avere dei prodotti che effettivamente poi siano positivamente degradabili, no? Che siano effettivamente scomponibili, e quindi che questi materiali non li buttiamo via. Assolutamente sì. E su questo, per esempio, alcune metodologie nuove, che sono quelle anche abbastanza suggestive, per esempio che si riferiscono alla simbiosi industriale, quindi a modalità che consentono di avviare proprio una simbiosi vera e propria tra i vari momenti della vita di un prodotto, sono delle cose veramente di grande interesse. Cioè progettare tenendo presente poi quello che il prodotto sarà immesso nella società, immesso nella nostra natura, per quanto artificiale, progettare i suoi comportamenti. Ne stiamo parlando, esatto, come di una persona, ma in fondo il punto di vista è questo, quello da assumere. Lei da Bologna, che siamo riusciti a dire quello che potevamo dire brevemente nella nostra trasmissione. Il cluster, il progetto, insomma, è già iniziato. Che tempi ha? Il cluster ha una dimensione temporale di 5 anni. Devo dire che è una delle prime volte in cui un progetto di queste dimensioni, di questa portata, ha anche questa dimensione temporale, ma noi speriamo che diventi una attività permanente, insomma. Certo, sì. L'obiettivo è quello lì. Grazie, buon lavoro a lei da Bologna. Grazie a voi, buon lavoro a voi, buonasera. Cosa è successo? Che il tempo è finito, ecco, questo è successo, quindi vi aspettiamo qui la prossima settimana a Möbius.